E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria c'è Attica Blues. Allora, ve l'avevamo già annunciato la settimana scorsa e si è materializzato qui. Abbiamo come ospite i Rockers, Alberto Castelli. Ciao Alberto. Ciao, benvenuti agli ascoltatori e me lo dico da solo, benvenuto. Finalmente in studio, possiamo finalmente dire. Finalmente in studio, esatto. Avevamo fatto già una puntata. Non solo, finalmente in studio durante, come ospite di una delle mie trasmissioni radiofoniche preferite. Oh! Meglio di così. Ma sono proprio contento, cioè come il bambino che va a giocare a pallone con il suo calciatore preferito, vero? Dai, io lo sento, ti seguo, poi insomma, quindi per me essere ospite qui è proprio, anzi vi dirò che io in realtà ho scritto questo libro per poi essere ospitato. Oh, ah, vedi? Allora tutto torna. Il libro ovviamente di cui parliamo è Soul to Soul, meglio conosciuto come L'Opera. L'Opera, sì. Storie di musica vera, esatto. Uscito lo scorso novembre? No, dicembre. Dicembre. Poco prima delle festività, perché ovviamente è una strenna perfetta, un libro per grandi e piccini, e quindi siamo usciti intorno a Natale, credo il 7 dicembre ufficialmente, una cosa del genere. Quindi fresco fresco comunque. Sì, fresco di stampa, come si suol dire. Senti, ma L'Opera è una rivisitazione a sua volta di un'opera già... Sì, in parte. Nasce così, cioè nel senso che io nel 2005, credo, pubblicai un libro intitolato Soul People. Questo libro finì, ma la casa editrice non l'ha mai ristampato. Ok. A quel punto è finito il contratto e quindi ho ripreso i diritti, cioè il libro è mio, è diventato mio. E ho detto ok, lo aggiorniamo un po', perché nel frattempo alcuni artisti di cui avevo scritto erano scomparsi, oppure altri erano cresciuti bene, c'erano diventati più famosi, altri erano un po' meno. Quindi un semplice lavoro così di aggiornamento e di scrittura. Poi invece in pratica è un altro libro, cioè del vecchio libro, del vecchio Soul People c'è il 20%. Il resto è tutto repertorio nuovo, come si suol dire. Ok, raccontacelo. Allora, breve. L'opera è complesso da raccontare, nel senso che ho mescolato, cioè ci ho messo dentro un po' tutto, nel senso alcune esperienze mie personali legate al mio lavoro appunto radiofonico, di scrittura, come manager discografico e via dicendo. Tu fai anche un sacco di reading, sì, accompagnato sì. da DJ, sì, esatto. Quindi cose sì, anche sì. Anzi, come dicono quelli chic, storytelling show. Ah. Che ovviamente io appartengo alla categoria di quelli che appena sentono il termine storytelling si innervosiscono. Però sì, tra l'altro è un'attività che nacque proprio in contemporanea con l'uscita del vecchio libro, cioè di Soul People, nel senso che ho cominciato a fare delle presentazioni, quelle classiche, cioè una noia mortale. E allora a quel punto ho detto ok, facciamo una cosa come se fosse un programma radiofonico, però fatto live. Figo. Quindi c'è un DJ con me, io racconto o improvviso cose tratte appunto dal libro. E quindi insomma dentro c'è la mia storia personale, insomma detta così chissà che cos'è, insomma in realtà che ne so, quello che ho fatto in alcune radio e via dicendo. Poi ci sono degli incontri immemorabili con artisti appunto che hanno significato molto per me, e quindi racconto di questi stili, di questa musica, di questi artisti. Storie di musica vera è il sottotitolo, ma in realtà non è così, perché il 70% delle storie di cui io racconto in questo libro sono vere e abbiamo ampia documentazione storica. Il 10% sono storie che sarebbero potute accadere, cioè come dicono in America, what if. Il rimanente 20% sono tutte storie inventate. Il lettore ha facoltà. Quindi di sta a noi scegliere. Ah, esatto, cioè, no, la cosa bella è che secondo me il lettore non dovrebbe decidere quale storia è vera e quale storia è inventata, cioè dovrebbe semplicemente dire o decidere mi piace questa o mi piace quest'altra. Poi se sono vere o meno, chi se ne importa. E tra l'altro non solo artisti musicali, perché ci sono anche artisti sportivi. Sì, c'è tutto il pantheon personale. E nel senso che c'è, ovviamente ci sono artisti, cioè musicisti, produttori e via dicendo, e poi ci sono soprattutto figure dello sport, perché poi secondo me lo sport, come la musica, è fondamentalmente uno spettacolo popolare. Cioè dovrebbe essere, poi adesso il calcio moderno è un'altra cosa, però nasce così. È diventato mainstream. Esatto, però in realtà sono cose popolari, insomma, come del resto, sai, negli anni ormai lontanissimi, ad esempio, molto spesso le rockstar venivano interpretate e vissute come se fossero dei rivoluzionari, e i rivoluzionari erano vissuti come se fossero delle rockstar. E quindi ci ho messo dentro Muhammad Ali, Karim Abdul-Jabbar, leggendario giocatore di pallacanestro, e adesso è diventato scrittore peraltro da diversi anni. E poi ci sono, insomma, riflessioni sulla pallacanestro, che io considero lo sport proprio musicale per eccellenza. Cioè la pallacanestro, hanno detto che è arte in movimento, ma secondo me è anche musica con il pallone, ed è anche un gioco molto jazz, cioè è proprio jazz la pallacanestro. Sì. Anche perché poi sai, cioè il grande giocatore che va a canestro, che è un po' come il grande musicista che fa l'assolo, e poi però dopo suona tutto il gruppo, suona tutta la band, così come gioca tutta la squadra. Quindi così, insomma. E poi perché comunque sai, io fondamentalmente ho cominciato a sentire musica perché avevo una mamma molto audace, coraggiosa e moderna per i suoi tempi, e quindi in occasione del mio, credo, 8° compleanno mi regalò il 45 giri di Yellow Submarine dei Beatles. Io impazzii, cioè per me era la canzone più bella del mondo, e quindi da lì Beatles. Poi c'è stato il periodo della doppia B, cioè Beatles, Battisti, Lucio, nonostante Mogol, perché a mio modesto avviso Battisti non ha avuto successo grazie a Mogol, ma nonostante Mogol. E quindi Beatles e Battisti, e poi pallacanestro, cioè nel senso che quando capì che purtroppo non sarei mai diventato quello che volevo diventare, cioè un giocatore di calcio, possibilmente capitano della Roma con il numero 8 un'ambizione da niente. Esatto, cioè, allora ho cominciato a giocare a pallacanestro, sono completamente impazzito per la pallacanestro, ho cominciato a seguire le squadre americane, i giocatori di pallacanestro americani, soprattutto quelli neri, quindi Dr. J, Karim Abdul-Jabbar e via dicendo. E quindi ho mescolato insieme tutte queste cose, cioè fondamentalmente le mie passioni. E lo scopo del libro è proprio quello di raccontare storie al di là del fatto che se siano vere o no, e di coinvolgere chi legge attraverso queste storie. Guarda, è uscita una recensione bellissima, cioè secondo me troppo generosa nei confronti di questo libro, e hanno detto che io sono un po' una sorta di griot, che c'erano questi che giravano nei villaggi africani, raccontavano le storie delle famiglie, cioè erano la memoria tramandavano e via dicendo. Ora, mi sembra francamente eccessivo, cioè ringrazio per questa definizione, ma forse è troppo, però in realtà lo scopo è questo, cioè raccontare storie cercando di coinvolgere le persone. Poi ognuno decide, quella storia è vera? Boh, può essere, oppure no. Va bene, è falsa ma mi piace, cioè decidete voi, fate quel che volete. Va bene, allora okay. Come i nostri ascoltatori sanno, quando abbiamo un ospite ci porta la selezione musicale. Sì. Quindi tu ci hai portato una selezione rigorosamente in CD, noi siamo abituati ad avere gli ospiti con le chiavette in linea di massima, invece sei venuto con i CD, come si fa? Allora, francamente, trovo sconcertante l'uso di questi congegni elettronici. Ma sono il teso dei tempi che cambiano. Se mi avessero detto 30 anni fa tu ascolterai musica dal telefono, gli avrei detto ma tu sei scemo, cioè ma che droga usi. È andata invece così. Ma sai che c'è? Che invece, cioè, il CD è stato un oggetto la cui scomparsa non è stata salutata da nessuno. Cioè i CD sono scomparsi e nessuno li ha rimpianti, mentre i vinili che oggi stanno tutta tornando, la retorica e via dicendo. Invece secondo me io lancio questa scuola o questa iniziativa, cioè rivalutiamo i CD. Cioè se ci pensi, comunque te hai, mi rendo conto che esteticamente è un oggetto bruttissimo, però te c'hai dentro un dischetto 74 minuti di musica, cioè, che non è male. Certo. Ad esempio, a mio modesto avviso, il CD è stato fondamentale nella rivalutazione del concetto di raccolta, di compilation, perché chiaramente sono uscite su CD raccolte con dentro 20-30 canzoni, che su vinili dovevi fare un quadruplo. Per cui ho portato un po' di CD, e tra l'altro sono alcune canzoni che ho ascoltato durante, è la playlist della stesura del libro. Ah, vedi? Per esempio il primo, se è sempre quello che abbiamo detto, sì. Ecco, il primo capitolo del libro è dedicato al Northern Soul. Il Northern Soul non è una vera e propria scena musicale, cioè nel senso che fu un fenomeno che si sviluppò in Inghilterra alla fine degli anni 60, quando giovani fondamentalmente proletari e sottoproletari cominciavano a sentire il soul, ma non il soul quello famoso della Motown, della Stax, cioè proprio il soul fatto da etichette piccole, indipendenti, dischi introvabili, artisti di cui non si sapeva nulla, e prese corpo questa scena. Tra l'altro il termine Northern Soul è perché in quel periodo a Londra c'era una persona straordinaria che purtroppo ci ha lasciato, che si chiama Dave Godin. Dave Godin è stato proprio un giornalista, un produttore, cioè uno che ha portato la black music in Inghilterra, e lui a un certo punto aveva aperto un negozio di dischi a Londra che si chiamava Soul City, dove trovavi dischi pazzeschi. E in pratica che succede? Succede che ogni sabato pomeriggio, perché in quel periodo in Inghilterra il campionato di calcio si giocava di sabato, non di domenica, per cui ogni sabato pomeriggio dal nord dell'Inghilterra arrivavano i tifosi che seguivano la propria squadra quando questa giocava con una squadra di Londra, e prima di andare allo stadio andavano in questo negozio a comprare i dischi. Però la cosa divertente è che loro non compravano, che ne so, il disco primo in classifica, ma proprio dischi oscuri, rarissimi, che non trovavano nel nord trovavano da altre parti. No, aspetta, che non trovavano da nessun'altra parte. Allora a quel punto Dave Godin, che era buono, bravo, ma non stupido, disse: accipicchia, questi arrivano dal nord e se comprano questi dischi che io ho qui in magazzino da anni, meno male. E quindi radunò tutti questi dischi in un unico scaffale e mise il cartello con scritto Northern Soul, perché era riferito il soul di quelli che arrivano dal nord. Fantastico. La cosa esplose, per cui cominciarono a fare serate nei club che andavano avanti tutta la notte, insomma, ballando proprio questa musica. E il primo capitolo del libro è dedicato appunto al Northern Soul e comincia con ipotizzando che io mi trovo, mi ricordo, il 22 aprile del 1972, intorno alle 2 di notte, in coda per entrare al Wigan Casino, che è stato uno storico club dove appunto si ascoltava e si ballava questa musica, e dove in quel giorno si tenne la prima serata di Northern Soul. E da lì racconto insomma tutta questa storia bellissima del Northern Soul. Fantastico, quindi il brano in questione che ci ascoltiamo è di Chuck Woods ed è intitolato Seven Days Too Long, letteralmente 7 giorni sono troppi, coro, Without You Baby, senza di te. Chuck Woods, Seven Days Too Long. First time I called you, girl, they say you wasn't home. And the second time I tried it, they say you wanna be left alone. We had a lover's call, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up. It's all up to you now, 'cause seven. Senti, ma ci raccontavi un aneddoto a microfoni spenti, sì, su questo produttore, giornalista, scrittore, Godin. E niente, lui al liceo, insomma, in quello che è il liceo inglese, aveva un compagno di classe che si chiamava Mick Jagger. E David Godin già da allora aveva una grande collezione di dischi e quindi cominciò a prestare questi dischi a questo giovane Mick Jagger. Erano dischi di blues e di rhythm blues e poi tutto il resto è leggenda. Leggenda. La troviamo in qualche capitolo del tuo libro e decideremo se è vero. Questa cosa proprio nello specifico no, ma sulle tante grandi opere da benefattore dell'umanità di David Godin, sì, insomma. Che poi sai, a ripensarci, è un merito aver fatto scoprire la musica nera a Mick Jagger o una colpa? Questo lo lasciamo come interrogativo ai nostri ascoltatori. Esatto. Per me è un merito, poi. Sì, anche per me. Anche se io sono più dalla parte di Keith Richards, insomma, che è un personaggio fantastico, insomma. Tra i due preferisco Keith Richards, soprattutto quando poi Keith Richards, con un tocco di genialità che gli è proprio, ha coniato il celebre soprannome nei confronti di Mick Jagger, che lui nel corso della sua autobiografia, quando parla di Mick Jagger, lo chiama Brenda. Brenda, sì, che è bellissimo. Dice tutto. Sì. Che effettivamente ci sta proprio. Ci sta tutt'anno, cioè, in questa biografia di Keith Richards, che è fantastica, solo una volta c'è scritto Mick, una volta c'è scritto Mick Jagger, poi sempre Brenda. Fantastico, vabbè. Allora ritorniamo anche al libro. Sono 250 pagine che tu hai scritto con un ritmo radiofonico. Sì, c'è cercato. Insomma, e quindi ho cercato. E c'è anche Ho sognato Bob Marley. Ci sono musicisti in realtà poi pure lontani, Al Green, Anita Baker. Come le hanno insieme? Cioè, qual è il filo conduttore? Beh, ovviamente, oltre alle tue passioni, certo, diciamo. Ovviamente, diciamo che il primo filo che lega tutti è questa sorta di grande grande contenitore di emozioni che noi chiamiamo musica black o musica nera e via dicendo. Quindi questo è il primo collante che tiene insieme tutte queste persone e tutti questi artisti. E l'altro poi magari è che ci sono delle cose che li mettono in relazione, cioè, per dirtene una, nel capitolo dedicato ad Al Green, io a un certo punto racconto che una delle canzoni più belle di Al Green di quel periodo, cioè primi anni 70, è Love and Happiness, fondamentale, canzone fantastica, dalla quale secondo me sono nati un sacco di bambini, perché chi l'ha ascoltata? E comunque poi che succede? Succede che Al Green e il suo produttore, il leggendario Willie Mitchell, pubblicano questa canzone, se non sbaglio, nel 73. Qualche mese dopo, in Giamaica, un giovane produttore chiamato Niney the Observer, Joe Gibbs, poi. In realtà è Winston Holmes, Niney the Observer, e il suo cantante preferito di quel periodo, che era Dennis Emmanuel Brown, vanno in studio, prendono Love and Happiness di Al Green, l'introduzione alla chitarra. In gergo tecnico si dice rovesciare gli accordi, quindi prendono quella canzone, ne rovesciano gli accordi iniziali e nasce Westbound Train. Fantastico. Questo, quindi, è tutto legato, oppure che ti posso dire, il soul nasce dall'incontro-scontro tra il gospel, che era la musica religiosa, e il rhythm and blues, che era la musica del diavolo, del sesso, del peccato. E queste due musiche si incontrano, o meglio, si scontrano e nasce il soul. In Giamaica, nel 62, quando la Giamaica finalmente ottiene l'indipendenza dall'Inghilterra, nasce lo ska, e lo ska era il jazz, lo swing e il rhythm and blues in levare. Quindi, ripeto, cioè, per me è una sorta di contenitore, tu prendi quello che vuoi, ma tutte queste cose qui alla fine fanno parte di una sola, unica grande storia. Cioè, poi ognuno chiaramente ha la sua personalità, ha il suo suono, ha la sua storia, però trovare tutti questi punti in comune è fantastico, perché poi ti dà l'idea proprio di un linguaggio universale, e tu puoi prendere, che ne so, la parte che riguarda il jazz, la parte che riguarda l'hip hop. Cioè, prima parlavamo del griot, no? Se ci pensiamo bene, il rapper è una sorta di griot dei tempi moderni, perché appunto con la voce racconta storie e via dicendo. E quindi, cioè, a me piace trovare tutti questi punti di contatto, cioè il Sant'Uomo, vale a dire Robert Nessa Marley, che io chiamo affettuosamente il Sant'Uomo, quando lui era piccolo e sognava di diventare un musicista, voleva diventare come James Brown, come Sam Cooke, come Ray Charles, e senza questi musicisti non ci sarebbe stato Marley, il Sant'Uomo e tutto il resto. E quindi, cioè, in un certo senso, poi appunto lo ska in Giamaica è il rhythm and blues giamaicano, il rocksteady, che è quello che viene dopo, è il soul giamaicano, e il reggae in un certo senso è il rock giamaicano. E anche il DJ style, se vogliamo, è il rap o l'hip hop, certo, poi che si è sviluppato, sì, poi successivamente. Tra l'altro, cioè, in anticipo, lì invece sì, sta molto in anticipo. Sì, cioè, certo. I primi che hanno cominciato a parlare sopra la musica, cioè con il talk over e seguendo il ritmo della musica, erano i DJ giamaicani, perché poi sai, in Giamaica la tradizione vuole che chi mette i dischi non è il DJ, si chiama selector. Il DJ è proprio l'MC, cioè quello che parla, sopra la musica, capito? E voglio dire, lo stile dei DJ giamaicani è quello che poi ha anticipato l'hip hop e il rap. Sì, pure perché la Giamaica, non importando musica in qualche modo, ma rifacendola, doveva anticipare. Poi, cioè, un personaggio proprio fondamentale nella storia dell'hip hop è questo DJ Cool DJ Herc, si chiamava, che è stato uno dei primi a fare le feste hip hop, rap per strada, a mettere certi dischi, a usare certe tecniche come quella dei campionamenti, lo scratch e via dicendo. E lui viveva nel Bronx, dove era arrivato come migrante insieme alla sua famiglia dalla Giamaica. Quindi cioè, il cerchio alla fine, in un modo o nell'altro, si chiude sempre. Per fortuna. Allora andiamo avanti con la musica. Ci hai portato un disco di Doris Duke, I'm a Loser. Sì. Che traccia ci fai sentire? La prima, purtroppo non ho fatto in tempo a scrivere di Doris Duke in questo libro, ma nel secondo ce ne sarà un altro, quindi? Sì, perché fai conto che alla fine ho fatto, erano circa 680 pagine, circa 700 pagine. E quando l'editore mi ha detto, guarda che siamo intorno a 700 pagine, gli ho detto, guarda, con tutto l'affetto, conosco l'autore, gli voglio bene, ma un libro di 700 pagine non lo leggo. E quindi, però al tempo stesso non volevo tagliare niente, e quindi abbiamo detto, ok, adesso facciamo uscire il primo, e se il primo va bene, ci abbiamo già il secondo pronto. Quindi, fantastico. Se questo va bene, insomma, Doris Duke è un'altra di queste grandi cantanti soul pochissimo conosciute dal grande pubblico, e lei per un periodo lavorò con un produttore completamente folle, anche lui poco conosciuto ma bravissimo, che si chiama Swamp Dog, e fecero questo disco di soul, proprio quello vero, I'm a Loser, prodotto appunto da Swamp Dog, e la voce in primo piano è quella di Doris Duke. I'm praying to the Lord above to please send me back my love, not knowing life was my mistake, I was asleep when I should have been awake. Don't need. home. Go home. Go home. Go home. Is he coming back? I don't know. But he's gone. He's gone. He's gone. Took all our crew. It was unnecessary. E allora vi ricordo che è uscita la nuova Scarceranda, meravigliosa come ogni anno col suo libricino, quest'anno è floreale. Vi ricordo pure che c'è in atto la campagna abbonamento, perché la radio non vive d'aria, ma vive nemmeno grazie, noi. Nemmeno noi. Nessuno vive d'aria, e quindi neanche la radio vive grazie al sacrificio di tante persone, di tanti compagni e tante compagne, grazie al lavoro spesso anche duro, quindi c'è bisogno del sostegno di tutti. Tu ti abbonerai, Alberto? Se ne ho la possibilità, molto volentieri, l'ho già fatto in passato, quindi io ho sempre seguito questa radio con grande affetto, perché comunque è bello che c'è, insomma. Grande. Ed è bello che continui ad esserci. Poi ripeto, io lavoravo in altri contesti, facevo radio di un altro tipo, però per me è fondamentale che ci sia questa radio, quindi abbonatevi e fate abbonare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, anche perché sai, radio come queste, poi se un domani facendo gli scongiuri non ci saranno più, allora è dura, allora avverti la mancanza, no? Vanno perché, sostenute, sì, sì, no, sì. Perché poi magari uno non si rende conto, cioè accendi la radio, la senti, è tutto tranquillo, però poi quando magari il giorno che per motivi X, che non dovrà mai accadere, accendi e non c'è, e non più, c'è più una radio di questo tipo, allora dici, ah, vedi che cretino, cioè, ecco, ho perso qualcosa. Quindi non perdete qualcosa, abbonatevi. La radio senza padroni, senza pubblicità, senza partiti. E ecco, l'importanza, anche parliamo dei libri, soprattutto dei libri sulla musica, perché io spesso poi ho letto tanti tanti libri sulla musica, e devo dire che la musica raccontata magari al cinema o in DVD, o a me mi è capitato adesso in settimana di vedere anche lo spettacolo teatrale su Chet Baker fatto da Paolo Fresu, e la musica secondo me non rende bene raccontata. Ma in questo modo, perché ovviamente stai parlando Fresu, grandissimo musicista, però alla fine è sempre la solita cosa. Sì, ma è proprio il fatto di, non lo so, a me non, poi sai, non piacciono queste cose molto in cui comunque racconti una storia che è bellissima, però poi alla fine non proponi niente di tuo. Sì, in quel caso secondo me la critica che si può fare è che era soprattutto incentrata sulla vita maledetta di Chet Baker, quindi sul suo rapporto più che altro sulle droghe, sì, quindi approfondendo magari poco il fatto che lui cantasse, esatto, lì non risulta per nulla, per esempio, esatto, non si avverte minimamente. Assolutamente fantastico, insomma. Totalmente originale, esatto, calante, insomma, aveva una sua riconoscibilità. E quindi, cioè, ovviamente è bello che ci siano musicisti che ricordino altri musicisti. Assolutamente. Sarebbe sì. Sarebbe bello, però, che non mi racconti soltanto la solita cosa che faceva un uso smodato di eroina, perché purtroppo lo sappiamo. Esatto. E secondo me, se tu metti quella cosa lì in primo piano, cioè ti dimentichi la cosa più importante, cioè la musica. E poi, come spesso accade sui film anche. La fortuna di conoscerlo tanti anni fa, che lui veniva spesso a Roma, purtroppo la sua vita era, cioè, pesantemente condizionata, sì, da quello. Sì, è sì, una sì, cosa brutta, insomma, capito? E invece a volte si tende un po' pure a romanticizzare queste figure. Cioè, a me sarebbe piaciuto che lui magari si fosse fatto meno pere, scusate l'espressione, ma avesse guadagnato di più. Certo. Ecco, saremmo stati tutti molto più contenti. Pure lui, probabilmente. Pure lui. Sta cosa dell'artista maledetto, drogato, squattrinato, basta. Sì, sono d'accordo. E invece il libro riesce, secondo me, a descrivere, grazie, bene, perché riesce a approfondire un, guarda, aspetto. Una cosa, secondo me, cioè, bella di questo libro è che io cerco di raccontare queste cose a modo mio, insomma. Ecco. Anche perché poi, sai, io sono giunto a questa conclusione, cioè tu puoi apprezzare una canzone perché conosci l'arrangiamento, la tecnica, lo stile e via dicendo, però se ci pensiamo bene, il motivo vero per cui ti piace una canzone di te, non puoi spiegarlo, perché è una sensazione personale, sì. Esatto. A me piace, come dire, raccontare queste cose qua, insomma, cioè cosa ha significato, perché poi devi sempre tutto contestualizzare, no? Cioè, voglio dire, noi non ci rendiamo conto di che cosa voleva dire, ad esempio, negli anni 60, un 17enne che accendeva la radio e sentiva i Beatles. Cioè, pensa che botto che doveva essere. Oppure come lo fu appunto per la mia generazione, che a un certo punto nel fatidico e indimenticabile 1977, che in Italia viene spesso definito come l'anno di piombo. Sì, è vero, c'era anche questo, ma ci sono state un sacco di altre cose. Io poi avevo 16 anni, quindi cioè, le ho vissute, le conosco. E quindi nel 77 per noi, a un certo punto, quando è arrivato appunto Bob Marley, è arrivata questa strana musica che non si conosceva bene, insomma, cioè suo ritmo in levare, abbiamo tutti perso la testa. E allora lì te puoi dire che Marley era un cantante straordinario, e in effetti lo era, che il suono del suo gruppo era fantastico, ed è vero, cioè pensa a un bassista come Hanson Family Man, Barrett, il fratello della batteria e via dicendo. Però poi le canzoni ti piacciono per un motivo che non riesci a spiegare tecnicamente. A me piace quella zona lì, capito? Quella cosa di emotività, passione. Poi comunque questa è una musica che nell'arco dei decenni ha combattuto, cioè musica che nasce dalla sofferenza, nasce dalla schiavitù, nasce dalla segregazione razziale. Cioè noi quando pensiamo all'apartheid pensiamo al Sudafrica. In realtà negli anni 50 e negli anni 60 in America c'era l'apartheid, solo che non si chiamava così. E allora questi sono eroi. Eh sì, come no. E come no. Tali vanno celebrati e vanno raccontati, insomma. E come diceva anche Martin Luther King, che il jazz è stato praticamente, sì, la colonna sonora, la di colonna quei movimenti jazz sociali. Soul, sì, sì, indubbiamente, insomma. E quindi. E chi c'è adesso? E quindi ci ha portato a Marvin Gaye. Altra cosa di cui sono orgoglioso è che, ad esempio, c'è tutto un capitolo su Prince, che secondo me è il più forte di tutti, e la storia lo dimostrerà, dove ci sono circa 50 pagine su Prince. Sono orgoglioso di dire che non ho mai scritto il Folletto di Minneapolis. Quindi, cioè, questo per me è motivo di grande orgoglio. Si parla a volte di Bob Dylan e non ho mai scritto il Menestrello di Dulce. Ecco, queste sono cose di cui sono orgoglioso. Io Prince mi ricordo che l'ho visto a Roma negli anni 80, che bene, Prince. Sì. Fantastico. Fantastico, ero proprio pischellissimo, un concerto che mi è rimasto impresso. Guarda, cioè è come metti nel calcio, no? Te cominci e dici, allora, piede sinistro, piede destro, tiro, passaggio, colpo di testa, visione di gioco, cioè, e sommi tutte queste cose e alla fine dici, volo finale 90, fuori classe. Nel caso di Prince tu hai uno straordinario chitarrista, un fantastico tastierista, un cantante con una voce che è unica, un produttore geniale, un autore altrettanto geniale, uno che sapeva suonare tutti gli strumenti. Se tu metti in fila tutte queste cose qui, giungi alla conclusione che lui è la figura più importante di quella che potremmo definire popular music del Novecento. Proprio, cioè, prima o poi lo dovranno riconoscere. Io lo sostengo da anni e ne sono orgoglioso, anche perché, come raccontavi te, per esempio, io vidi il concerto di Prince a Milano, il primo in Italia del tour di Sign of the Times, quello in cui lui diceva vestiti tutti di color pesca, e quello era uno spettacolo. Io ancora oggi, cioè, ogni tanto dico, ammazza, ma quello era il numero uno, cioè uno spettacolo. Sì, anche perché poi aspetta, cioè devi anche aggiungere che dal vivo era il numero uno. Sì. Cioè, chi è che ballava, cioè, anche meglio di James Brown. Cioè, il gruppo era fantastico, non sbagliavano niente, cioè, ma manco se gli dicevi per favore sbaglia una cosa, era tutto perfetto. Quindi alla fine, se tu sommi tutte queste cose, lui è il numero uno. Forse Michael Jackson potrebbe. Forse Michael Jackson, anche se secondo me Michael Jackson, di cui altra cosa di cui c'è un capitolo su, sì, Michael Jackson. Altra cosa di cui sono moderatamente orgoglioso, c'è un capitolo su Michael Jackson, ma non ho scritto nulla del dark side di Michael Jackson, le cause e via dicendo. Non ho scritto nulla sulla sua morte perché non sono interessato. giustamente. E quindi mi sono concentrato su. Poi, cioè, oppure ho trovato delle storie fantastiche. Cioè, vere o false? No, cioè, talmente vere che sembrano false. Cioè, nel senso che Quincy Jones è stato il produttore di Michael Jackson, sì, dei dischi quelli storici, cioè Thriller, off the Wall, Thriller e Bad. Mm. Quindi dischi che hanno, cioè Thriller ha venduto credo 50 milioni di copie, cioè proprio disagio, cioè delirio cosmico. E i due, cioè Quincy Jones e Michael Jackson, Michael Jackson stavo per dire Michael Jordan, ormai faccio confusione, e si conobbero in realtà lavorando a una cosa che fu un fallimento totale, cioè la versione cinematografica Black del Mago di Oz, il musical e via dicendo. Loro fecero una versione Black con dentro Michael Jackson, colonna sonora di Quincy Jones, insomma, cioè proprio produzione clamorosa, flop terribile. Altrettanto clamoroso. Sì, sì, proprio, cioè di quelle che fanno male, cioè proprio il sangue, capito? E però i due entrarono in contatto e ho trovato questa storia vera perché l'ha raccontata Quincy Jones in un giornale americano attendibile. In pratica, dopo questo fallimento, i due comunque continuavano così a frequentarsi e un giorno Michael Jackson gli disse, telefonò a Quincy Jones e gli disse: senti, devo lavorare al mio primo disco come solista perché finalmente mi sono tolto dalle palle, scusate le espressioni, i fratelli, il padre, la famiglia, perché insomma storie, ecco, ingombranti. Esatto, gli disse: devo fare il mio primo disco come solista. E disse a Quincy Jones: per caso hai un produttore da indicarmi? Cioè, mi fai un nome di un produttore che secondo te potrebbe produrre il mio primo disco come solista? E Quincy Jones gli disse: devo fare un nome? E lui: sì. E lui: ma intendi uno a parte me? Silenzio. E Michael Jackson disse: te? Beh sì, in effetti te saresti fantastico come produttore. Lo sai che non ci avevo pensato? Cioè, così nasce. E poi da lì, capito? Quindi racconto queste cose e invece non racconto nulla insomma, le cause, i tribunali. Sì, che poco interessano poi, ma alla sì, fine poi quello che rimane di un artista. Esatto. Non sono interessato. Non sono il lato artistico, no, diciamo. No, come diceva, sai, Lester Young, che è stato un grande sassofonista jazz, uno dei più grandi, lui aveva inventato anche un suo linguaggio. Cioè, oltre a inventarsi uno stile al sax, si inventò un linguaggio. E quando una cosa non lo interessava, lui diceva: I have no eyes, cioè non ho occhi. E quando invece gli interessava, diceva: I have eyes, cioè ho occhi, quindi guardo questa cosa. Ecco, tutta quella roba lì, io per quella roba lì non ho occhi, cioè I have no eyes, per il resto sì, insomma. E Marvin Gaye, figura tragica, insomma, cioè ucciso dal padre dopo decenni di conflitti laceranti, probabilmente il più grande cantante nella storia, aveva un'immagine pubblica che era quella dell'uomo super cool, capito? Extra cool, fighissimo, in realtà, cioè tormento, uno sfascio totale, totale. Sì. E quando poi era in studio e faceva musica, diventava Marvin Gaye, insomma. Tutto qua. E quanti figli sono nati pure con Marvin Gaye? Non come Marley, sai, Marley di official, cioè ufficiali ce ne sono 11. Poi ci sono tutti gli altri por amigos. Però i veri ufficiali sono, anche qui altra cosa bella, cioè il più talentuoso dei figli, secondo me, è Damian, più originale. Gong. Tanta buona volontà, Ziggy è bollito, cioè quello che doveva fare l'ha fatto. Quello proprio che ha maggior talento è Damian Junior Gong, e tra l'altro è il figlio più piccolo dei figli official, sì, di Marley. E c'è un antico detto degli Yoruba, che è un popolo africano, corrisponde, cioè sono in Nigeria, e questo proverbio dice: sarà il figlio più piccolo che porterà avanti l'opera del padre. Che poi è successo anche con Fela Kuti. Cioè, in questo momento dei figli Shokuti di Kuti è, esatto, quello più, anche assolutamente Shokuti, sì, e anche Shon Kuti è il più piccolo. Quindi la profezia, la tradizione nigeriana, anche in questo caso è stata rispettata, insomma. E che sentiamo? Marvin Gaye? Marvin Gaye. Ma sì, certo. Senti, nell'opera c'è anche un capitolo dedicato a Mikey Dredd, che io ho avuto l'opportunità di conoscere bene. L'altro è colpa tua se c'è Mikey Dredd, nel senso che è l'ultimo, cioè il libro si chiude con una cosa che è una ghost track, come nei CD quando c'era la ghost track. In pratica la ghost track è il copione di uno spettacolo teatrale che ho fatto un anno fa, una prima e unica rappresentazione trionfale in un teatro qua a Roma, e lo spettacolo è intitolato Kings, Bob Marley incontra Muhammad Ali. Insomma, sono tre atti e sono tre avvenimenti importanti nella vita di uno o dell'altro, durante i quali c'erano tutte le condizioni per cui i due si sarebbero potuti incontrare. In realtà non si sono mai incontrati, invece in questo testo si incontrano. Io ti sono venuto a vedere nello specifico. No, quella era un'altra. Questo qui hai visto Kings? Sì. C'era anche Duccio B. Sì. Esatto, al teatro off. Serata fantastica. Poi sì, c'ha più chiamato nessuno, però. E quindi dicevo, c'è questa ghost track. Invece il libro si chiude proprio con un capitolo dedicato a Mikey Dredd. E questo capitolo dedicato a Mikey Dredd è diviso, diciamo, in due parti. La prima è una sorta di racconto sulle prime cose che fece Mikey Dredd alla radio, perché lui cominciò proprio come tecnico, neanche come speaker, cioè come tecnico alla JBC, che è la radio nazionale giamaicana, la Jamaican Broadcast Corporation, e lui cominciò come fonico. Poi dissero: guarda, di notte chiudiamo le trasmissioni a mezzanotte, se vuoi fai un programma di notte, tanto non ti sentirà nessuno. E lui cominciò a fare questo programma e fece il botto. Cioè, per dire, in quel periodo in Giamaica, se tu giravi per Kingston la mattina, c'era la gente che si sentiva la cassetta del programma di Mikey Dredd la notte prima. E poi andò a Londra, dove diventò anche il docente reggae dei Clash. E alla fine io l'ho incontrato nell'estate del 2002. Dove? Casa mia. Esatto. E facevamo questa intervista fantastica, ricordo, cioè veramente bella. Poi lui era sempre, insomma, descritto come uno un po' così. Era un personaggio particolare. Esatto, non era facile. Io ti dico, quell'intervista con me fu gentilissimo. Sì. A parte, non so se ti ricordi l'episodio comico. Perché io da grande fan mi sono presentato a casa sua, cioè nel senso a casa tua, c'era anche lui, con tutti i dischi della mia collezione di Mikey Dredd, cioè tutto il reparto Mikey Dredd portato in blocco lì per firma e dedica. E lui a un certo punto prese uno di questi dischi, lo guarda e disse: questo non è mio. E ho fatto: come non è tuo? Guarda che è tuo. No, questo è bootleg, che è pirata. No, è tuo, l'etichetta tua. Mi guarda: sì, c'hai ragione, me l'ho dimenticato. E insomma, bellissimo. Poi, tra l'altro, nel libro racconto pure che per me quella lì fu una serata particolare. Primo perché appunto ho conosciuto e intervistato quello che era stato uno dei miei eroi adolescenziali. Ma la cosa più bella e più surreale è che a un certo punto io mi trovai nel terrazzo di casa tua, io e Mikey Dredd, e da questo terrazzo vedevo Parco Nemorense e la scuola Mazzini, elementari se non sbaglio, e quindi via Pulsinio. E a via Pulsinio abitava una mia storica fidanzata, che io ho veramente tormentato facendole ascoltare tonnellate di reggae che lei non sopportava. e per me quindi era una cosa veramente, ma che droga mi sono preso. Esatto, un sogno praticamente. Stavo con Mikey Dredd in un terrazzo guardava delle strade e una zona che per me era casa mia. Era l'infanzia, sì. E quindi, cioè, chiusura del cerchio. Tra l'altro, questa fidanzata storica che, come si dice alla radio, salutiamo e ringraziamo, abitava appunto a via Pulsinio, quartiere Trieste Salario, nello stesso palazzo dove qualche anno dopo andarono ad abitare Duccio B e gli altri di One Love. Sì. Cioè, vedi come tutto torna. Oppure, che ti posso dire, da un lato vedevo Parco Nemorense, se mi giravo arrivavo fino a Villada. E Villada era stato un posto fondamentale per la mia educazione sentimentale e non solo, cioè io passavo i pomeriggi a Villada. Diciamo la generazione prima di quella di Raina, che era la mia, con cui stavamo sempre a Villada. Prima c'eravamo noi, Pegoz, Raina, Ginko. Esatto, esatto. E noi andavamo spesso in quella che si chiamava Villada Chiusa, cioè scavalcavamo, c'era il buco nella dove rete, c'era il bunker, esatto, c'era il fortino. Le buche, e ci insomma svolgevamo attività ricreative di profondo spessore. E quindi ripeto che per me quell'intervista appunto con Mikey Ted è passata alla storia, perché era tutto assurdo, cioè se ci pensi che te sai appunto con Mikey Dread, uno dei tuoi eroi, e contemporaneamente vedi, io vedo quella strada dove andavi, villada, cioè bellissimo. Intervista che c'è nel libro? Sì, sì, l'intervista c'è nel libro, e così come poi racconto anche qualche altra storia legata ad esempio alla scena reggae italiana e romana della seconda metà degli anni 70, prima di Generazione Villada, Possi, sì, e via dicendo. Ad esempio racconto del misterioso e affascinante caso di Castro Pretorio via Palestro, che pochi conoscono, ma la vecchia scuola del reggae lo sa questa storia. In pratica, in quella che adesso è Castro Pretorio, cioè di fronte alla Biblioteca Nazionale, sì, in quel periodo c'era proprio di fronte alla Biblioteca Nazionale, che ancora non c'era, era in costruzione, un negozio di dischi che però vendeva i dischi, quelli che stavano in classifica, insomma. E quindi noi, che voglio dire, eravamo fighi, chiaramente per noi era un negozio da evitare, stoppavate, inutile, certo. E invece che succede? Succede che all'improvviso, per motivi misteriosi, questo negozio mette su un reparto reggae impressionante, cioè decine e decine di dischi della Trojan, cosa hai mai visto a Roma? E quindi i pochi adepti del reggae di quel periodo a Roma cominciarono tutti a frequentare questo negozio a Castro Pretorio. Ed era una cosa pazzesca, perché te ci avevi proprio i dischi in classifica, che chiaramente dicevi andate a casa, e poi ti giravi e c'era questo scaffale di dischi reggae. E negozio per quanto è durato poi? Adesso c'è un negozio di cellulari. Ok. Che è l'emblema proprio. Poi che cambiano. Però ci furono questi 3 o 4 mesi in cui c'erano persone come me che entravano in quel negozio. Prima si guardavano intorno per essere sicuri che nessuno l'aveva visto entrare in quel negozio, e poi come automi si dirigevano in questo reparto reggae e lo saccheggiavano, ecco. In realtà poi molto tempo dopo si disse che il reparto reggae era stato un tir che era stato assaltato in autostrada e gli avevano rubato tutti i dischi, e tra questi c'erano questi migliaia di dischi, vedi, di reggae, capito? Però ripeto, per chi ha un'età, come si dice, ormai certa, il misterioso caso del negozio di dischi Castro Pretorio via Palestro rimane ancora oggi, cioè, una sorta di mito, certo, proprio essenziale. Perché io per esempio lì comprai, che ti posso dire, Screaming Target, il primo disco di Big Youth su Trojan, originale, gli Heptons, Trojan. Cioè delle cose pazzesche, capito? Ma che già conoscevi o che hai scoperto lì? No, conoscevo per sentito dire, poi sai, in quel periodo non c'era niente, cioè non c'era internet. Certo. Ecco. Allora, tu per essere aggiornato, tutto quello che potevi fare era andare alla scoperta. No, nelle edicole di Via Veneto, perché trovavi i giornali inglesi e americani di musica, e quindi con ti documentavi con le classifiche. Oppure in quel periodo nella prima edicola a Via Veneto, cioè non quella di fronte al Grand Hotel, quella più su, sì, andando verso Villa Borghese, ogni settimana trovavi ICOS, che era un quotidiano inglese, c'è un giornale inglese solo di black music, Black Ecos, e poi trovavi Black Music, che era appunto un mensile inglese che aveva preso il posto di Jazz and Blues. E così ti facevi una sorta di cultura. Il problema era che poi questi giornali parlavano di dischi che tu non riuscivi a trovare. Allora, quelli più ingegnosi come me li prendevano per posta. E certo. E soprattutto li prendevano per posta in un negozio di cui scrivo tanto nel libro, che secondo me è stato il più bel negozio di dischi di tutta la mia vita, di tutta la storia, cioè Dub Vendor. Dub Vendor. Negozio reggae. Che ha continuato la tradizione di vendere per posta per anni, esatto, è venduto in tutto, esatto, il mondo. Fino a che non aprirono quello che in gergo si chiamava the fucking black hole, cioè il fottuto buco nero. Perché questo negozio era piccolo. Il primo, allora, Dub Vendor nasce con una bancarella al mercato di Portobello il sabato, e vendevano dischi in questa bancarella. Nasce così Dub Vendor. Poi aprono questo negozio, che era veramente cioè la metà di, cioè tipo più o meno come questa stanza, all'uscita della metropolitana stazione Ladbroke Grove. E io c'avevo tipo 20 anni, credo, insomma, andai a Londra e trascorrevo gran parte della mia giornata blindato dentro da vendor. Tant'è che un giorno il commesso mi guardò e mi disse: senti, spiegami una cosa, tu sei italiano, vieni da Roma, da Roma sei partito, vieni a Londra e sei tutto il giorno qua dentro, ma siete tutti così a Roma o c'è un caso particolare, capito? Poi tra l'altro era pure complicato in quel periodo, perché tu eri bianco e loro erano neri, ed era cioè era strano, perché avvertivi una certa ostilità giustissima, Poi dopo, col tempo, quando vedevano che tu però eri lì perché eri proprio uno di loro, no, uno di loro non lo sarai mai, lo però sarai. Lo facevi perché amavi quella musica, amavi quelle storie, amavi quel mondo, e quindi a quel punto i meccanismi si allentavano e diventavi anche tu parte di quel gruppo, insomma, della comunità. Sì. Poi la Vendor ha aperto anche un secondo negozio a Club Junction, sì. E poi ne aprirono uno ancora più grande, sempre a Ladbroke Grove, vicino alla sede del primo. E adesso credo che continuano a vendere. Ah, sono ancora sì, sì, sul web. Cioè, i negozi sono chiusi, anche perché tra l'altro furono, non so se vi ricordate, ma qualche anno fa prese fuoco un gigantesco distributore di dischi a Londra, e in questo gigantesco distributore, cioè un edificio enorme, andarono distrutti master e migliaia di dischi, tra l'altro quasi tutti di etichette indipendenti. Oh. E da Vendor pure pare che avesse il proprio stock totale lì, e quindi poi hanno chiuso, però credo che sul web siano ancora attivi. Però anche lì era molto più bello, quando tu, capito, compravi il giornale, sceglievi i dischi, gli mandavi l'ordine via posta e attendevi, e poi no, che non arrivava mai. E poi quando arrivava era tipo festa di compleanno, insomma. Va bene, allora sono le 5:15, noi ci siamo allungati pure tanto. Okay. Ti ringraziamo per esserci venuto a trovare e averci parlato dell'opera. Lasciamo di sottofondo Alla schiena del sole, che sta entrando, un ultimo brano, sì, della tua selezione. Chi è? Allora, dovrebbe essere Millie Jackson, grande cantante soul completamente dimenticata, e tra l'altro era una che faceva anche rap quando il rap non c'era, parlando di sesso in maniera fantastica. Cioè, tutte queste nuove stelle del rhythm and blues sono delle sciampiste rispetto a quello che era Millie Jackson in quel periodo. E lei fece questa canzone chiamata It Hurts So Good, che poi diventò un grande successo reggae nella versione di Susan Cadogan, prodotta dal leggendario Lee Perry. Quindi il cerchio si chiude, e questo appunto è Millie Jackson. Dimmi. Ovviamente ti aspettiamo per il secondo volume. Secondo a questo volume punto. Sono già qui, cioè, stiamo già parlando del terzo ormai. No, grazie, è stato un piacere. Quando volete, sapete dove trovarmi. E grazie ancora. Che vi devo dire? Se vi va, comprate il libro, se no non fa niente. Assolutamente, cioè, sì. Sentite musica, drogatevi con droghe di qualità, fate l'amore e basta. E soprattutto abbonatevi a Radio Onda Rossa. Mi raccomando. Ale. Ciao. First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it tight. Then you take my mind and play with it all night. You take my pride and you throw it up against the wall. You take me in your arms, baby, and bounce me like a rubber ball. I'm not complaining, what you're doing, you see. Cause this pain you're feeling is ooh so good to me. Don't you know that it hurts so good? Don't you know that it hurts so good? Ooh, take my name, scandalize it in the streets. Anything you wanna do or say is alright with me. Baby, these things you're doing to me. boy, please don't ever take the hurt off. Cause it would hurt even worse if you'd ever, ever leave.